terror mio stolto, vedi a ceffi di birra in ogni volta. La pila, la colonna, a piede la Madonna mi scrisse mia sorella. Ancilla Domini fiat mihi secundum verbum tuum et verbum caro factum est et habitavit in nobis. Che fai? Recito Angelus. Preghiera, io le vinsi non disposto.

Mio, urge l'opera, lo sai? Vado, vado. Ce n'è tanti pel mondo! Aspetta! Aspetta! È l'attavante! Brava! Vedi, tomo, tornami, tornami! Lo caso! E passi, e per me spetto! Oh, va, lasciami. Tu fino a stasera stai fermo al lavoro e mi prometti, se a caso fortuna, se a treccia bionda bruna, a pregar non verrà donna nessuna. Lo giuro, amore, va. Quanto m'affretti! Ancora! No, perdona! Davanti la Madonna! Guida ad un antro scuro, rifugio impenetrabile e sicuro. Ho scoperto la fuga, or sparca i suoi sbirri sguinzaglia. Addio, con voi verrò, staremo allegra, se ci assalgo battaglia. Ne son dovente, chi contrista miscredente, che si guadagna un'indulgenza. Tutta qui la fantasia, ecco, questa vestita, non sapete, buona parte, c'è garatto, buona parte, Ostellato, sto scandato, e piombato a Pelzebù. Violenza, storia, colla, e vedi, cappalo. Torne giunse la notizia, sempre senti la vittoria. E questa sera, gran fiaccolata, veglia di gara a Palazzo Farnese. Ed una cosica, nuova cantata, con gloria tosca. E nelle chiese inni al Signore. Con via a vestirvi, con più favor, via, via, chi se vestirà. Eccellenza, il gran giubilo. Ha prestato per il Tedeum. Tu resta un nuovo. E tu? Ma frugo ogni angolo, raccogli ogni traccia. Va bene. Occhio alle porte, senza dar sospetti. Ora te, pesa le tue risposte. Un prigionier di stato fuggì pur ora da Castel Sant'Angelo. Sei rifugiato qui? Ricordo. Forse c'è ancora. Dov'è la cappella degli attavanti? Eccola. Aperta. Arcangeli. E un'altra chiave. Un indizio. Entriamo. Fu grave sbaglio quel colpo di cannone, il mariolo spiccato e il volo, ma lasciò una preda preziosa. Cavaradossi! E lui! Lui, il cavaliere! Lui, la mano di tosca, un uomo sospetto, a volte lui! Vuoto, vuoto! E detto che fu? Si ritrovò nella cappella, fu questo panier? Tu lo conosci? Certo. È il sesto del pittore, ma non di me. Sputa quello che sai. Io lo lasciai pieno di cibo prelibato. Il pranzo del pittore avrà pranzato. Nella cappella non ne aveva la chiave, né contava pranzar. Disse gli stesso, oddio l'aveva già messo al ripacco. Libera me, domine. Or tutto è chiaro, la provvista del sacrista d'angelo ti fu la preda. Chissà dove sia, svanisca, taglialo per sua stregoneria. È tornato, no, no, tradirmi non può. Non per galanteria, ma per offrirvi l'acqua benedetta. Grazie, signor. Un nobile esempio il vostro, al cielo pieno di santo zelo, attingete. Il magistero la fede ravviva. Bontà vostra, che pie donne son rare, voi calcate la scena e in chiesa ci venite per pregar. E intendete? E non fate come cerbi sbandate che anni Maddalena questo. Ventaglio, dove stava? Là su quel palco. Qualcun venne certo a sturbare gli amanti ed esse nel fuggir per delle tende. Thank you. Tre sbirri, una carrozza, presto, seguila dovunque vada, non visto, provvedi. Va bene, il convegno. Palazzo Farnese. Thank you.

profonda miseria. A più forte sapore la conquista violenta del belli tuo consenso. Io di sospiri e di lattiginose alle lunari poco m'appago e non so trarre accordi di chitarra l'oroscopo di fior né far l'occhio di pesce o tubar come tortora. Cosa bramata per seguo, me ne stazio e vi l'aggeggo. Volta nuova esca, io creò di tese beltà fine diversi. Io vo gustar quanto più posso dello pratico. Buon punto! Oh, galantuomo, come me la caccia? Santiglia, suo maiuto! Della signora seguimmo la traccia, giunti a un'erba di menta tra le frate perduta, e la ventrò, e si sta la ben presto, allora scavalco l'esco il muro del giardino con i cagnotti, e piombo in casa. Quel bravo spaventa. Fiuto, razzolo, fugo. Ai, gli angelotti. Non si è trovato. A cane, a traditore, ceffo di basilisco. Al parco, Gesù. C'era il pittore. Cavare Dossi. E sa dove l'altro s'asonde, ogni suo gesto, ogni accento tradia, tal beffarda ironia, che io lo trassi in arresto. Meno male. Egli è là. Introducete il cavalier. A me Roberti è il giudice del fisco. Tal violenza! Cavalier, vi piaccia accomodarvi? Può sapere. Sedete. Aspetto. E sia. E noto che una prigione la sua voce venuto che una prigione oggi è fuggito da Castel Sant'Angelo ignoro pur si pretende che voi l'abbiate colto in Sant'Andrea con i storici. Le prove un suddito fedele al fatto chi m'accusa i vostri birri in bantrugar la villa segno che ben celata sospetti di spia per le vostre ricette e mi ride e rido ancora. Questo è il luogo di lacrime. Guardate. Or basta. Rispondete. Oh, gli angelotti. Non lo so. Negate. che là si è nascosta. Ego, ego! Via cavaliere, riflettete, saggia non ego testa ostinatezza vostra, angoscia grande, pronta confessione. Consiglio, dite, dove dunque Angelotti? Non lo so! L'ultima volta, dove? Non so! Come tratti di corda? Eccola! Mario, tu qui! Quanto avresti taci o uccidi? Mario Cavaradossi, quel testimone, il giudice m'aspetta. Prie le forme ordinarie, indi ai miei cenni. Quell'aria sgomentata. Momento alcun non ha. La storia del ventaglio fu sciocca gelosia. L'attavante non era dunque alla villa. No, era solo. Solo. Potrebbe abbreviare la rassa e penosa. La prova, Roberti, ripigliamo! Roberti. venuto? Assassino! Voglio vederlo! Portatelo qui. Rincorrere

sua grazia è questa? E l'ultima? Che dici? Mia cosa, quel mio amore volevo formare. da te la vita prende ogni splendore, all'esser mio la gioia ed il desire. Nascondi te come di fiamme ardore, io vorrei orare i cieli e scolorire, vedrò nell'occhio tuo rivelatore cose più mire, avrà sole da te voce. Come se il tuo amato se fuori ci sarà guida in terra e in più. Thank you. 我喜欢旅游，喜欢拿着单反到处拍照，拍美丽的风景，拍家人的笑脸。我会变魔